La possibilità cioè di veicolare un numero enorme di informazioni in un microsecondo. Mettiamo caso a un aborigeno dalla parte opposta del pianeta. Ma il problema è, aborigeno, ma io e te, che cazzo se dovevo dire? Avanti, non sei niente, solo chiacchiere distintivo. Qui finisce la lezione. Sei solo chiacchiere distintivo, solo chiacchiere distintivo. Sei solo chiacchiere distintivo, chiacchiere distintivo. E 45 minuti primi, si ritorna in diretta qui a Radio Onda Rossa. Siete sintonizzati sull'87.9 MHz di frequenza della banda romana e laziale. E questa è 25 O'Clock. E già trillano lo 0649 1750. Poco cominceremo a scaldare la notte di Radio Onda Rossa. E un benvenuto al professore. Sì, stasera hai ospiti, a quanto ho capito. Ospiti? Beh sì, un ospite d'onore, insomma. Sono onorato della tua presenza. Beh, una voce che penso la prima volta ascoltata Radio Onda Rossa, no? La mia. Sì, non... Sì, però sei portato, c'è una voce radiofonica. Sì, sì, un po' emozionato per questa prima volta. Fa una cosa, professore. Magari per sciogliere un po' i nervi, fatti una birretta. Ah, sì, pure cioè, è un'idea, consiglio, è un'idea, consiglio, un'idea che non avevo magari pensato. Magari non ci avevi pensato. Non ci avevo pensato. E quindi 0649 1750, per farvi sentire che esistete. Ed oltre allo storico numero di telefono della radio, ricordiamo gli altri contatti. Con calma. Quindi dicevamo i contatti della radio, oltre allo storico numero di telefono, il sito della radio, raggiungibile al www.ondarossa.info. punto di riferimento dove rimanere aggiornati. Dove potete rimanere aggiornati attraverso le notizie, il podcast delle trasmissioni, le corrispondenze. Ma qui alla radio avete anche magari una casella email dove gli ascoltatori e le ascoltatrici vi mandano delle domande. Professore, hai fatto un'ottima domanda. Veramente non. Sì, abbiamo anche un contatto email. Hai fatto un'altra ottima domanda, perché ne abbiamo più di uno. Caro piccolo professore, abbiamo quindi l'email della redazione. Indovina un po' qual è? Ma come può essere? Ondarossa chiocciola Ondarossa. Eh sì, non ci abbiamo molta fantasia, però magari è facilmente memorizzabile. Ondarossa chiocciola ondarossa.info. Per chiamare a voi di questa trasmissione? Per chiamare sempre attraverso il per mandare email. Questa era una domanda a trabocchetto. Io già l'ho capito a te, eh? E quindi per scrivere a 25 o'clock 25 o'clock chiocciola ondarossa.info, oppure fantasma chiocciola ondarossa.info. Come vive la radio? Cioè, come fa a trasmettere che non fa la pubblicità? Allora, gran parte è magia, però non si vive di sola magia. Okay. Purtroppo non si vive di sola magia. Neanche di sola tecnica. Troppo in sangue non mi. 25 o'clock ha una condizione sempre intensa. No, è una costante. Potete... Cioè, è un caos ordinato. Sì. Talmente costante che è un punto fermo. Potete farci affidamento. Quindi radio che non vive di sola magia. E sempre attraverso il sito potete contribuire far rimanere in vita questa radio libera dal 1977, senza padrini e senza padroni. E quindi cliccando su sostieni e poi sottoscrivi sarete collegati alla pagina di PayPal. Potete sottoscrivere anche passando qui in radio fino alle ore 21. E potete sottoscrivere attraverso lo storico conto corrente della radio al 61 80 40 01, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Volsci 56 00 185, Roma San Lollo. Preparatissimo. Ma perché dopo le 21 no? Gira brutta gente. Non è consiglio. Cioè, allora, fino alle ore 21 potete. Tranquilli, potete venire a conoscerci. Siamo molto, molto felici di ciò. Potete venire a sottoscrivere. Dopo le 21 non ve lo consigliamo. Dopo venire le ore 21, conoscere... soprattutto di mercoledì, potete venire, però bussate coi piedi. Eh sì, uno bussate coi piedi e due a vostro rischio e pericolo. Non c'è pericolo, però siamo molto espansivi. Rinnoviamo anche per questa stagione un invito, quindi se nelle vostre cantine vi trovate un mug, un soffitto, un sintetizzatore, sì. Un qualsiasi aggeggio elettronico. Se avete la console, capito, all'ingresso che ci appoggiate le chiavi, ci avete un Moog per console? Se vi avanza un Moog, certo, portatelo qui, magari ci fate anche una dimostrazione qui, qui in diretta. Sì. Lo preleviamo. Poi ve lo renderemo. Sì, sì, cioè, per ora lo prendiamo noi. Vabbè, questa volta non vi torturo come la, come lo scorso mercoledì, eh? Vi sanguino ancora con le orecchie. Hai portato un po' della magia che hai comunque accumulato dell'atmosfera esoterica, dell'esoterismo che hai accumulato nei tuoi peregrinaggi estivi insieme al Magnetizer? E sicuramente ho accumulato magia. Poi è in preparazione per le prossime puntate. Questa sembra una cosa preparata. Per le prossime puntate prepareremo una puntata. Uh-huh. Dedicata alla magia baltica. Va bene. Che viene pure Ermagna? Viene pure Ermagna, quindi vi racconteremo un po' le nostre esperienze raminghe nelle foreste baltiche. Visto che con il rientro del professore siamo proprio al 100% ritornati qui in pianta stabile, ci abbiamo un po' gli occhietti tristi della fine dell'estate. Ce l'abbiamo un po' di tristezza dell'estate. Ce l'ha un po' di tristezza dell'estate, professore? No, io più che altro volevo commentare in pianta stabile, perché fino a che non verremo cacciati, ovviamente, a furor di popolo. Lasciamo comunque il beneficio del. No, no, esprimetevi tranquillamente. Sì, insomma. Sì. E quindi, a proposito, un pezzo di tristezza estiva. Una cosa nuova, 1968. Loro sono i Blue Cheer. E questa è Summertime Blues. This boy. Sometimes I wonder. for the summertime blues. Quindi del 1968 dei Blue Cheer abbiamo fatto un salto in avanti nel tempo, perché noi qui a 25 o'clock il tempo lo rubiamo, il tempo lo dilatiamo. E quindi da un disco del 2006, ancora sotto, che vanno i Witch. Formazione Stoner Doom fondata da il signor Mashes, dei Dinosaur Junior. E ci siamo ascoltati la quarta traccia, che è Changing. E facciamo un altro balzo indietro nel tempo, 1980, da un EP intitolato Play It Again. Loro sono gli Atomic Rooster. Yeah. e così apriva Flower of Disease, disco del 2000, e loro sono i Godsnake, usciti per Southern Lord. Godsnake che alla chitarra vedono il mentore proprio della Southern Lord, Greg Anderson. '23:19 qui a Radio Onda Rossa. Questa è la notte di 25 o'clock. E già cominciamo ad avere visioni. Allucinazioni notturne dovute alle nostre giornate. Qui vedo nell'aria immagini di personaggi vestiti di metallo però vestiti diciamo abbigliamento intimo in metallo, precisamente mutandoni di rame. Ma stiamo parlando di Dave? È lui, ci siamo capiti. Eh sì, perché Dave Windorf, voce dei Monster Magnet, veste unicamente mutande di rame. Sarebbe interessante capire il perché. E ci ascoltiamo da Mastermind, l'attualmente ultimo lavoro dei Monster Magnet, in attesa del nuovo disco in uscita ad ottobre. E questa è la quarta traccia, Gods and Punks. È qui. Siete attenti. Perché qui lo studio di Radio Onda Rossa si tinge di rosso. E questo accade quando trillate allo 0649-1750. E questo significa che i Monster Magnet vi piacciono. E noi ce li ascoltiamo da capo. Però fate ancora in tempo ad alzare il volume del vostro stereo radiolina, quello che ci avete. E quindi da capo. Your girlfriend tells you the world. e presi della gioia dopo aver ascoltato i Monster Magnet, siamo tuffati nelle atmosfere paradisiache del discone che è Feathers, disco del 2005 uscito su Matador Records. Loro sono i maestri delle atmosfere dilatate. I Dead Meadow. Li abbiamo ascoltati con la quarta traccia, che è appunto Heaven. Però troppo paradiso fa male, eh? Rimaniamo sempre acidi e squagliati. Con un tocco diabolico però. E loro sono gli inglesi Uncle Acid and the Dead Beats. Dal disco Bloodlust del 2011, uscito su Risabo Records. E questo è Over and Over Again. We'll be right back. questa era l'inconfondibile voce di Glenn Danzig con questo progetto. Del 1984 loro sono i Samain. Siamo ascoltati dal disco che è Initium, l'ottava traccia, The Hole. ...23:43 in questo momento. Siete all'ascolto di 25 o'clock. E questa è Radio Onda Rossa, 87.9 MHz di frequenza. Ed ora vi andiamo a proporre un gruppo che molto spesso passiamo da queste parti con piacere. Ed è il loro ultimo disco. E poi si sono sciolti, Questo appunto è il disco del saluto, che è Sonic Mass. Loro sono gli Amebix. Ce li ascoltiamo con Knights of the Black Sun. Thank you. e qui le atmosfere si cominciano a fare più notturne. Visto che ci avviciniamo alla mezzanotte di Radio Onda Rossa. E questi erano i Tripticon. Ultima creatura di Thomas Warrior Fisher. Già mente dei Celtic Frost. Abbiamo ascoltato Shatter, prima traccia dell'EP omonimo. .23:55. Il prossimo pezzo è per le streghe all'ascolto. Bella Martis. E questo è Night of the Witch. Remember. E dopo aver ascoltato Night of the Witch dei Death SS, ci siamo ascoltati Slow Down, pezzo presente sul doppio CD che è She Said dei Colorays. She Said, doppio album uscito per la Electro Ash. Visto che le atmosfere si stanno facendo dilatate, perché siamo entrati nell'ora di 25 o'clock, l'ora rubata, noi ci proiettiamo nel futuro. Ed è un disco intitolato In the Future, appunto. Questa è Angels, loro sono i Black Mountain. Christmas, amen, for it's time to beware of a certain sin. A cool breeze down my spine, if I'm really here, then I feel fine. Child, you bring it all back. This world's eating me inside. Ed il pezzo era Don't Look Too Far, da Liverpool, Anathema, disco del 1999, Judgment. Mezzanotte e 13, siete all'ascolto di Radio Onda Rossa, 87.9 MHz di frequenza. E rossa è la luna. questa è la Luna Rossa di Danzig. Thank you. eccolo. Allora, mentre vanno gli OM 25 o'clock Radio Onda Rossa 87.9 della modulazione di frequenza della banda romana e laziale, mezzanotte e 20 minuti in, quindi in pieno 25esima ora. Allora andiamo a leggere un po' di appuntamenti, di comunicazioni, di cose che ci saranno nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Cominciamo con un comunicato che ci arriva da parte di una trasmissione che è anche parte della redazione di Radio Onda Rossa, cioè il coordinamento lesbiche romane, che insieme a Casbile, spazio ludico gestito presso la Casa Internazionale delle Donne in via San Francesco di Sales 1-1A alle ore 21, come praticamente la totalità delle delle iniziative appunto che c'è presso la Casa Internazionale delle Donne, che è, eccetera, è uno spazio riservato, quindi a sole donne, uno spazio separato. Der Puff, frammenti cantati di corpi internati di Francesca Falchi, con Francesca Falchi, Marta Proietti Orzella, direzione musicale di Ennio Azzeni. E questa appunto rappresentazione ci sarà venerdì 13 settembre, ripetiamo, presso la Casa Internazionale delle Donne via San Francesco di Sales 1A. In attesa che tutti quanti noi maturiamo la consapevolezza e ci organizziamo per le date che ci saranno di ottobre, esattamente il 18 e il 19 ottobre, di mobilitazione per quanto riguarda quello che è la crisi che ci stanno facendo pagare, benché appunto per l'ennesima volta ci si appresti a dire che ormai la crisi è alle spalle, è passata. In realtà quello che succede è semplicemente che gli spread, gli indici di borsa salgono, quindi i profitti di chi fa soldi su queste cose cominceranno a rifarsi vivi, insomma, di nuovo a essere belli, prosperi e polposi, e per loro questa qui significa che la crisi è passata. Poi che invece ci facciano il culo a noi, come dire, con un eufemismo e con francesismo, questo qui è un discorso a parte. Allora, dicevamo, in attesa appunto che ci organizziamo di quello, di queste cose più più corpose che si e più globali, insomma, che si manifesteranno verso dopo la metà di ottobre, per ora appunto uno dei tanti delle tante contraddizioni di questa società che emergono, che sono inerenti alla produzione e al consumo dei beni e soprattutto al loro smaltimento, cioè la famosa monnezza, rimangono appunto al centro dell'agenda, diciamo, e delle contraddizioni che scaturiscono di volta in volta. Questo è l'appello quindi per il corteo del 21 settembre prossimo, lanciato dal nuovo presidio contro la discarica della Falcognana, il sito destinato dal commissario ai rifiuti Sottile per il post Malagrotta. Quindi il coordinamento dei comitati del Lazio contro le nocività e devastazioni ambientali. Scendiamo in piazza tutte e tutti contro le devastazioni del territorio sabato 21 settembre 2013 alle 15.30 alla Piazza Repubblica, Piazza Santissimi Apostoli. Poi ci sono tutte le motivazioni nel comunicato del perché scendere in piazza. Noi ne mettiamo una davanti a tutti, perché la monnezza è merce e come tutte le merci c'è qualcuno che ci guadagna sopra, anzi molti tendono a guadagnarci sopra. E anche, lo dico così, lo diciamo proprio perché questo tipo di cosa la vediamo poi e la vediamo tutti i giorni nel concreto, persino sulle raccolte differenziate, su qualsiasi, comunque si trova la maniera di inserire elementi affinché appunto il profitto sia al centro anche dello smaltimento di rifiuti. Quindi, la chiamano green economy. Green economy, esatto, non sanno più come far soldi e essenzialmente vanno a cercare anche nella monnezza, ecco. Beh sì, oggi, anzi ieri era l'11 settembre, è passato, ormai siamo al 12. Naturalmente a noi l'11 settembre la cosa che principalmente ci ricordiamo è il golpe di Pinochet ai danni di Salvador Allende. Vabbè, l'abbiamo detto, dai. Poi, andando ancora avanti brevemente, vediamo qui che troviamo, eh. Vari cineforum in giro, cineforum Bidelba, quindi Spigolo Bidelba, Anarchia l'idea, 17 novembre 1941 Allarme a Hollywood e 24 settembre I vicini di casa, dedicato a John Belushi. Poi vediamo un po', programmazione, altro cineforum, Cinema America. Vabbè, il programma è abbastanza lungo e articolato, quindi vi invitiamo ad andare sul, sui vari blog, sul sito del Cinema America, e andare a leggere il programma, perché appunto è piuttosto lungo. Ancora 12-14 settembre, ce lo stiamo perdendo. Però siamo quasi persi. Eccolo qui, Reload Spartaco, ogni anno ritornano. Centro sociale Spartaco, via Selinunte 57, 12, 13, 14 settembre. Serata di Targa Argentino, serata Baskerville. E poi sabato 14, Reggae Dancehall Night. Questo qui a Spartaco, a Roma Sud, Cinecittà. Poi ancora, Circocentrica alla Torre, questo qui il 12 e il 13 di questo mese, quindi oggi no, 12-15 di questo mese. Pure qui programma abbastanza lungo e articolato, vari spettacoli, vari gruppi circensi, varie giocolerie, appunto il tutto da domani fino a domenica alla Torre. Alba 2, ancora un altro cineforum, Casale Alba 2, adesso arriva. Nel frattempo che il professore coglie, sì, informazioni, sì, sempre per il tema Munnezza, chiudere la discarica di Roncigliano, presidia, partecipa, lotta, è ora di cambiare aria, continuano gli sversamenti dei rifiuti di Roma a Roncigliano, nessuno controlla e nessuno sa bene cosa continua ad accadere dentro la discarica dei Castelli Romani. L'aria è sempre più irrespirabile, è irrespirabile perché in campo non c'è nessun progetto delle amministrazioni locali con la raccolta differenziata per arrivare alla chiusura del sito di Roncigliano. È irrespirabile perché vorrebbero far partire i lavori dell'inceneritore utilizzando soldi pubblici, regalando così in tempo di crisi importanti risorse economiche ad un privato come l'avvocato Cerroni. È irrespirabile perché vorrebbero realizzare una nuova discarica a Falcognana, sempre sull'Ardeatina, a soli 5 km da Roncigliano. Si chiuderebbe la discarica di Malagrotta per aprirne un'altra. Quindi l'appuntamento per il prossimo 13 settembre al chilometro 24.500 di via Ardeatina, all'ingresso del villaggio Ardeatina, quindi il terzo presidio No Inch. Sì, è un presidio che praticamente, a quanto ho capito, adesso non so, comunque dovrebbe essere più o meno permanente. Permanente, sì. Esatto. Dunque, ritorniamo ai cineforum invece, così passando da Palo in Frasca, ogni giovedì alle ore 21, quindi il 12 settembre, il 19 settembre, il 26 settembre, questo qui al Casale Alba 2, vicino alle Bibbia, di via Gina Mazza, appunto. Raggiungibili oltre 341, 350 e 311, tutto contro tutti il 12 settembre, la nostra vita il 19 settembre, il 26 settembre il sospetto. Poi non so se c'è ancora qualcos'altro, però insomma ci siamo, vi invitiamo comunque, sì, questo qui è quello che hai letto te, Poi sempre questa settimana, il 14 settembre, sì, alla Strada. Sempre per Monnezza. Sempre per la Monnezza. Quindi la presentazione del libro e tavola rotonda sull'emergenza rifiuti a Roma. Verso il corteo contro le nocività del 21 settembre a Roma. Manuele Bonaccorsi, Lenia Sina, Nello, Trocchia, Roma come Napoli. Il malaffare di politica e signori della Monnezza che mette in ginocchio il Lazio e la capitale. Invece ancora venerdì 13 settembre alle 18:30 aperitivo e selezione musicale a cura della Radio Officina Occupata. Seguici streaming su www.radiofficina.org dalle ore 18:30 alle 22:30, quindi una radio che così è cugina, sorella di Onda Rossa, una web radio, il tutto al De Gage, studentato occupato, via Musa 10, metro Policlinico. E penso che ci siamo, più o meno, mi pare. Vogliamo parlare della ZK Squat il 14 di settembre 2013. Si tratta di un'altra, questa volta un'altra iniziativa in quel di Ostia, Piazzetta Vegan 2. Sostieni, dunque, vediamo un po', proiezione ufficiale, videoclip prodotto, Real Thing, Distro Anarchica, musiche, miscele musicali con Lai, Lazi, Iva, Paloma Paradise, Berhaus d'Atene. E poi, quindi pizzettata vegan allo ZK Squat. Pizzettata vegan. Che penso che ci siamo veramente. Diciamo, per lo spazio, sì, comunicazione ci siamo. Sì. Noi abbiamo detto più o meno tutto, andando a pescare un po' dalla rete e poi E quindi sugli OM ce le godiamo fino alla fine. E qua lascio i comandi al professore. Dai. Ancora di notte, ancora 25 o'clock. Una 25 o'clock che non ha urlato moltissimo questa notte. Sì, perché ci dobbiamo ancora scaldare. We'll be right back. dobbiamo scaldare in vista dell'autunno. Perché per quanto sia fraffrittino a dirvi che le cose non sono più come prima, le cose sono esattamente come prima, forse un po' peggiorate. Spiral Mind, gli Ozric. E andiamo a salutare Robertino il Mortimer. Conduttore di Allegro con Fuoco, che per il momento è fuori gioco. È cascato con la bici, eh. E lo aspettiamo presto. È molto da lontano, dal 1971, quando ancora adolescente fondò gli Psychedelics, poi Pink Rope, e poi diverse produzioni soliste. Stiamo parlando di Roy Montgomery, dalle Verdi Terre, dell'Emisfero Australe, Verdi Alte Terre di Nuova Zelanda. Questa è la lunghissima 12B. Che avremo modo e tempo di riascoltare durante la programmazione di 25 O'Clock, che ha ripreso da 2 settimane in questa stagione, se ci vorrete. We'll be right back. E dicevamo, non abbiamo urlato fino a questo momento moltissimo, un po'. Perché ci scaldiamo piano piano in attesa di quell'autunno che da tante stagioni si preannuncia caldo. Fate ciò che vi è necessario e capite ciò che vi è veramente necessario. Urliamo un po'. Allora, c'è televisione, radio, media mainstream, giornali, persino su internet, nella rete, una canea che vi indica quali sono i vostri nemici. Vi dice che sono i diversi, che sono i devianti, che sono gli strani, che sono quelli che sono difficili da inquadrare, coloro che non sono normalizzati. perché vi invitano insomma all'intolleranza. Ma la tolleranza e l'intolleranza sono solo delle parole. Quel che c'è dietro invece è una visione del mondo, delle cose, della nostra vita. E basta quindi girarle, le parole, invertirne il senso, il segno, cambiare gli obiettivi. E c'è una intolleranza. Non tolleriamo. E con un saluto a Ciccio e ai nostri bagni nel mare cristallino della Sardegna, palcoscenico al neon, intolleranza. Tollero. noi non dimentichiamo, anzi ogni giorno di più che i compagni rimangono nelle galere e le compagne restano rinchiuse. Cresce la nostra rabbia, il nostro disappunto, il nostro disagio a vivere in questo mondo infame. Scrivete a Marina Cugnaschi presso la casa circondariale di reclusione di Milano, bollate via Cristoforo Belgioioso 120 20 157 in Milano. Alberto Funaro, la casa circondariale Capanne, il nostro fagiolino, via Vaiola 252-06132 Perugia. E a Francesco Pugliesi, casa circondariale di Roma, Re Bibbia, nuovo complesso, via Raffaele Maglietti 70-00156, braccio G9, secondo piano. Vai Jimmy. My girl, don't lie to me. Tell me, when did you sleep last night? In the pines, where the sun don't ever shine, I would shiver the whole night through. Si può amare o meno? Si può pensare che fu l'ennesimo fenomeno da boraccone manipolato dalle multinazionali. Si può pensare che è finito. Con una fucilata in bocca, perché così doveva finire. Però c'è del blues e c'è della voce che la spiega questa tristezza. Kurt Cobain. Where did you sleep last night? C'è ancora del nero. My girl, don't lie to me. Tell me, when did you sleep last night? In the pines, where the sun don't ever shine. I would shiver the whole night through. My girl, where will you go? I'm going where the cold wind blows. In the pines, where the sun don't ever shine, I would shiver the whole night. It's about a mile from here. His head was found in a driving wheel, but his body never was found. My girl, don't lie to me. Tell me, the pines, where the sun don't ever. a sound. I was shivered the whole night through. Vabbè, con questo vi diciamo che siete stati ancora una volta all'ascolto di Radio Onda Rossa fino a tarda notte. Radio Onda Rossa che conclude qui le sue programmazioni della del mercoledì barra giovedì. Le trasmissioni riprenderanno domattina. My girl, where will you go? Con la lettura delle prime pagine dei giornali, la rassegna stampa, i relazionali della mattina, il giornale radio, insomma. In the pines where the sun don't ever shine, I will shiver the whole night through. Insomma, con la programmazione post estiva della radio, il nostro saluto più importante va a tutti e a tutte coloro costretti a condizioni di limitata libertà personale. Il carcere, la latitanza, gli arresti domiciliari, la clandestinità, gli obblighi di firma, i famigerati CIE. Noi credo che possiamo dire tranquillamente che ci risentiamo mercoledì prossimo. Bella così. Sotto la luna comunista.